Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera ai nostri ascoltatori. Questa sera parliamo di un libro che racconta un pezzo importante della storia industriale italiana. E ne parliamo con l'ingegner Simone Fubini. Buonasera, ingegner Fubini. Buonasera. Simone Fubini ha partecipato in Olivetti al gruppo di progetto del primo calcolatore elettronico, l'Elea 903, ha avuto una lunga esperienza alla guida appunto del settore informatico dell'Olivetti, poi in General Electric, in Honeywell, sempre nell'ambito informatico. È stato amministratore delegato di Teletra, direttore centrale di Fiat, direttore generale di Olivetti, quindi può raccontare dell'arco della sua esperienza, ormai possiamo dire che sono più di 50 anni di esperienza industriale, ingegner Fubini. Certo, sì. Nell'arco racconto della sua esperienza, la realtà dell'industria italiana, e ha scritto questo libro, edito da Egea, Oltre le occasioni perdute, dal transistor allo smartphone, 60 anni di storia impresa diretta. Allora, lei ha vissuto fin dall'inizio la rivoluzione industriale, quando nella seconda metà del secolo scorso si è passati, e soprattutto un'industria importante, direi a livello mondiale, nell'industria meccanica e elettromeccanica, poi ha cercato di entrare nel settore, esatto, dell'informatica, che stava entrando in maniera prepotente nell'ambito del sistema economico. Che cosa è avvenuto in quel periodo, ingegner Fubini? Dunque, in questo periodo direi che a partire dalla seconda metà degli anni 50, grazie alla preveggenza, diciamo, di persone come Adriano Olivetti e Virgilio Floriani, si è data una spinta fondamentale al settore elettronico, informatico e di telecomunicazioni, utilizzando il passaggio dalla tecnologia a tubi termoionici a transistori e poi successivamente circuiti integrati. E direi che in questo senso è stato un grande successo, importante per il paese, lo sviluppo dei primi calcolatori elettronici fatti da Olivetti con il gruppo di Pisa gestito da Mario Ciu, e lo sviluppo di Teletra con i circuiti di trasmissione delle telecomunicazioni già allora a larga banda, diciamo. Quindi c'era già allora un'integrazione tra l'informatica e le telecomunicazioni, dal punto di vista tecnologico, dal punto di vista business sono due cose completamente diverse. In effetti direi un punto di connessione è stata la creazione da parte di Teletra Olivetti della SGS, che poi è diventata successivamente STM Microelectronics e che è stato un grande successo di sviluppo dell'industria dei semiconduttori italiana. Oggi è una società mista italiana e francese quotata in borsa e direi che credo tra le prime 10 società di semiconduttori del mondo. Ecco, ma che cosa è avvenuto in quel periodo? Beh, sappiamo la prematura scomparsa di Adriano Olivetti, la morte in un incidente stradale di Mario Ciu, quindi fatti che appunto imprevedibili, che hanno sicuramente coinvolto anche le strategie aziendali, ma da un profilo industriale l'Italia era sicuramente all'avanguardia del mondo nell'elaborazione, nella progettazione di questi strumenti elettronici. Sì. Che cosa è avvenuto che fa appunto poi parlare di occasioni perdute nel titolo del suo libro? Sì, ecco, direi che il punto chiave che in un certo senso ha messo le basi per la successiva uscita dal mercato di Olivetti è stata la cessione della divisione elettronica alla General Electric, la quale direi l'ha poi sviluppata con successo, però in Olivetti è successo che proprio nel momento in cui le concorrenti realizzavano la trasformazione da elettromeccanica ad elettronica, direi si è trovata esclusivamente elettromeccanica, perché non aveva nessuna cultura elettronica e l'elettronica l'aveva ceduta. Quindi si è creato un gap di 5-6 anni dove la Olivetti non ha più sviluppato attività nell'elettronica, se non altro direi l'unica iniziativa è stata l'uscita del primo calcolatore personale programmabile nel mondo, la Programma 101, che era stata progettata a Pregnana Milanese, quindi entro la divisione elettronica, e che l'Olivetti non ha capito, non ha saputo nemmeno venderla nelle quantità necessarie né svilupparne una successione. Ecco, peraltro dopo alcuni anni, dopo l'ingresso di Carlo De Benedetti in Olivetti, c'è stata una ripresa, anche se per breve periodo, dell'elettronica con l'M24, che è stato un personal computer che ha avuto un grande successo commerciale. Esattamente, direi che tra l'altro in quel periodo dello sviluppo io ero in Olivetti come direttore generale e spinsi a fondo lo sviluppo di questo personal computer che per un paio d'anni è stato il più performante a livello mondiale, e questo ha giustificato il suo successo. Ecco, certamente, purtroppo direi nella tradizione Olivetti, in cui ogni prodotto avrebbe dovuto durare per troppi anni, non si è realizzato immediatamente il successore, per cui il successo è stato momentaneo. Ecco, non si può vivere sugli allori in un settore come questo, no, in cui l'innovazione è continua, bisogna appunto cercare di anticipare i tempi più che di sfruttare, come ha fatto l'Olivetti dell'elettromeccanica prima e poi in questa parentesi diciamo informatica, che sfruttare il successo. Ecco, io lascerei però un attimo anche la ricostruzione storica, lasciando anche a chi vuole leggere questo libro l'interesse appunto di andare alla ricerca dei particolari. Guarderei alla realtà attuale dell'Italia. Lei dedica l'ultima parte del suo libro alle prospettive dell'information technology. Molto spesso l'Italia viene descritta come un paese che non è capace di innovare, che è un po' il traino, che può segue non solo le mode, ma anche soprattutto le innovazioni tecnologiche che deve acquisire dall'estero. Lei invece dice che abbiamo comunque delle occasioni da sfruttare adesso, che possiamo sfruttare, e ci sono le opportunità, se non per una rinascita tecnologica, comunque per continuare ad avere degli spazi all'interno del mercato mondiale. Ingegner Fubini. Sì, assolutamente. Direi che le tecnologie che sono oggi all'ordine del giorno sembrano particolarmente adatte alle nostre imprese medie, diciamo, in quanto permettono di intensificare i punti di forza tipici delle aziende italiane, ossia la capacità di design, per esempio le tecnologie 3D che permettono prototipazione rapida e la possibilità, diciamo, di realizzare rapidamente dei prodotti. Questi favoriscono le industrie italiane che direi più che sulla produzione di massa sono centrate su produzioni relativamente piccole, come per esempio tutte le macchine per l'industria, il packaging, la confezione dei medicinali e così via, che richiedono cambiamenti continui nel design, nel prodotto, e personalizzazioni per ciascuno dei clienti con cui sono realizzate. Quindi il fatto, diciamo, di avere queste tecnologie nuove in mano, ossia la digitalizzazione dei processi e la progettazione rapida con la possibilità di modificarla con grande facilità, sicuramente favoriscono lo sviluppo di queste industrie che oggi sono la spina dorsale dell'industria italiana e dell'export italiano. Ecco, ma lei dice nel libro che ci vorrebbe quello che chiama un ecosistema favorevole alle imprese, cioè la possibilità per le imprese di trovare delle condizioni di favore, delle condizioni anche nelle infrastrutture peraltro elettroniche, in quello che vengono chiamati gli obiettivi dell'agenda digitale. In questo senso l'Italia ha ancora molta strada da compiere, questa forse può essere anche un'opportunità per sviluppare investimenti in questo settore, però è anche un limite. Ingegner Fubini. Ecco, diciamo che l'investimento nelle infrastrutture è certamente un compito fondamentale che facilita questo sviluppo industriale, e naturalmente il compito principale è un appoggio da parte del governo, ossia diciamo un minimo di strategia industriale centrata su facilitare le infrastrutture. Poi ovviamente ci sono tutte le misure che incidono sulla competitività delle imprese, sulla loro possibilità di crescita attraverso finanziamenti non solo la crescita dimensionale, ma la crescita anche dell'export attraverso certo, finanziamenti, assicurazioni, e direi che ci sono elementi che ha sviluppato recentemente il governo che sembrano favorevoli, quindi siamo in un momento in cui vi sono insieme diciamo alle operazioni al contorno, tipo il QE, la svalutazione dell'euro e il dimezzamento del costo del petrolio, sono tutti direi fattori, certo, che bisogna assolutamente utilizzare velocemente, e questo potrebbe effettivamente portare a una notevole ripresa dell'attività industriale, in particolare manifatturiera, che è la spina dorsale dell'economia italiana. E questo indubbiamente bisogna cercare di fare in modo che anche i ritardi possano diventare delle opportunità. L'Italia, le scrive nel suo libro, ha un internet economy che pesa per il 2% del PIL contro il 4% della media degli altri paesi. Ecco, questo gap va colmato, e colmarlo vuol dire fare nuovi investimenti e cercare di avviare quei meccanismi positivi, quei meccanismi virtuosi che possono aiutare anche la crescita. Ci dobbiamo fermare qui, grazie ingegner Fubini di questo libro. Lo ricordo, è Oltre le occasioni perdute, edizioni Egea, sono 160 pagine per 20 euro. Grazie anche a quanti ci hanno ascoltato. L'appuntamento con Economia in Pagine è per sabato prossimo.